Buongiorno, sono molto contento di essere qui questa mattina e sono molto contento di vedere ognuno di voi, perché la mia aspettativa, l'aspettativa del Signore è di vedere ognuno che coglie l'occasione che Lui vuole offrire. Quindi non voglio perdermi in altre parole inutili. Quel che dico io sono parole inutili, ma quello che la Bibbia dice non lo è, e quello che noi faremo questa mattina è proprio andare a cogliere quello che la Bibbia dice, e guarderemo a un episodio, una festa alla quale anche Gesù ha partecipato. È stato invitato a una festa. Questa festa si svolge a Capernaum, una città sul lago di Galilea, ed è vicino dove Gesù è nato. Gesù è nato a una trentina di chilometri da questa città, è una città dove spesso passava, quindi era molto conosciuto. E quello che dobbiamo afferrare per il contesto, che è molto importante, è che Gesù è all'inizio del suo ministero, ha iniziato a predicare, ha iniziato ad annunziare l'Evangelo, ha iniziato a dire perché è nato, perché è venuto, e ha iniziato anche a fare dei miracoli. Proprio qualche giorno prima di questo episodio, in una città lì vicino, aveva risuscitato il figlio di una vedova. Quindi possiamo dire che Gesù era il personaggio del momento. Era il personaggio al centro dell'attenzione, tutti quanti volevano conoscerlo, volevano sapere di più di lui, volevano capire che cosa faceva e perché lo faceva. E la domanda di quel periodo era: ma conviene stare con Gesù o no? E io credo che è una domanda ancora attuale oggi. Noi che siamo qua ci chiediamo, magari chi è qui per la prima volta dice: ma che cosa stanno a fare? Ma che cosa hanno a dire? Ma conviene questo? O sono diventati matti? Ed è per questa ragione che in quella città un fariseo, una persona colta, importante, in vista, aveva organizzato questa festa e aveva invitato i suoi amici, aveva invitato Gesù, probabilmente perché lui voleva conoscerlo di persona, aveva bisogno di chiarimenti, aveva bisogno di fargli delle domande, lo voleva incontrare. Allora lo ha invitato a questa festa, ha organizzato una cena per lui, ha invitato gli amici, e Gesù è andato a questa festa, ma è successo qualcosa che ha sconvolto proprio i piani di questo fariseo che si chiamava Simone. Possiamo leggerlo assieme nell'Evangelo di Luca, al capitolo 7, al versetto 36. È scritto così: or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato a casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnarglieli di lacrime, i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. E glieli baciava e li ungeva con olio profumato. Al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se colui fosse un profeta, saprebbe chi è quella genere di persona e la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli gli disse: maestro, di pure. Quando noi siamo con Gesù, o quando Gesù è con noi, succede sempre qualcosa. E siamo con qualcuno che fa delle cose straordinarie, ma siamo anche con qualcuno che conosce e legge nei nostri pensieri e nel nostro cuore. Quindi noi crediamo, perché la Bibbia lo dice, che Gesù è qui ed è in mezzo a noi, e Lui è pronto sia a fare cose straordinarie, ma è pronto, anche senza che noi lo vogliamo, a leggere nel nostro cuore. Lui sa esattamente cosa tu pensi di Lui. Lui sa esattamente che stima hai di lui. Simone è sorpreso da quello che è successo. Lui si aspettava tutta un'altra storia per la sua festa, però questa donna, che era una prostituta, era conosciuta come una prostituta, ha fatto irruzione a casa sua, senza essere invitata, senza essere aspettata, è entrata in casa sua, si è buttata ai piedi di Gesù, ha iniziato a piangere, a versargli dell'olio profumato sui piedi. E lui era sconvolto da questo fatto, perché era uno scandalo. Lui aveva invitato Gesù, non quella peccatrice. E tutta la città avrebbe saputo di quello che era successo e sarebbe stato deriso e sarebbe stato imbarazzato. Ed era ancora più stupito che Gesù non era per niente né sorpreso e né imbarazzato. Anzi, sembrava quasi che Gesù se l'aspettasse, sembrava quasi che Gesù stesse aspettando quella donna. E questo ha suscitato dei sentimenti contrari in Simone. Ha detto: ma io pensavo che fosse un profeta, che fosse qualcuno che contava, invece si lascia toccare, accarezzare da una donna, forse non sa nemmeno chi è. E questo lo ha fatto stare male. E le parole che ha detto: se costui fosse un profeta, quindi pensava che Gesù fosse qualcuno, ma era rimasto deluso da quello che Gesù stava facendo e stava dicendo, che ha detto: se costui fosse un profeta saprebbe chi è quella donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Sapete, in queste parole c'è un doppio giudizio. Simone sta giudicando la donna. Lui certamente si sente meglio di quella donna. Quanti di noi si sentono meglio di una prostituta? Simone, questo è quello che sta dicendo. Ma quanti di noi si sentono meglio di qualche altro che conoscono, di un amico, della moglie, di un collega di lavoro, di un conoscente? Quanti di noi ci sentiamo meglio di altri? Un po' tutti. Quindi sappiamo, conosciamo il sentimento che stava nel cuore di Simone. Questa era una donna abusata, disprezzata e senza nessuna dignità. E lui era un fariseo. Un fariseo, dovete sapere, che era un uomo colto, un uomo religioso, un uomo che credeva di sapere quello che era bene e quello che era male. E quindi lui si sentiva molto meglio. Il secondo giudizio in queste parole è nei confronti di Gesù. Gesù stava facendo qualcosa che Simone non condivideva. Gesù stava accettando che quella donna lo toccasse, che quella donna piangesse ai suoi piedi, e invece Simone dice: ma possibile che non si rende conto di quello che lui avrebbe fatto? Tutto diverso. Non ci è mai pensato, non ci è mai capitato di pensare e dire: ma se io potessi fare qualcosa, fare qualcosa di completamente diverso da quello che sta succedendo. Oppure non ci è mai capitato di pensare: ma Dio, perché permette che succedano queste cose? È lo stesso sentimento, è lo stesso giudizio. Simone stava giudicando Gesù perché Gesù non stava facendo quel che diceva lui. Molto semplice. Simone disprezza Gesù e Simone disprezza la donna. E in quel momento, in quella festa, che era partita come una festa, ma si era subito trasformata in una tragedia, certamente c'era silenzio, c'era imbarazzo, nessuno sapeva che cosa dire e nessuno sapeva che cosa fare. C'era questa donna che era stata coraggiosa abbastanza da andare a trovare Gesù. Forse aveva bisogno di ricevere qualcosa, proprio perché era e si sentiva disprezzata, umiliata e giudicata. E Gesù vede il cuore di questa donna che è rotto, che è a pezzi, e vede anche il cuore di Simone. È un cuore un po' arido, un po' chiuso in se stesso, un po' orgoglioso, e sta pensando: forse ho sbagliato a invitare Gesù, forse è meglio che facevo un altro programma. Ma Gesù è lì, e Gesù ama sia la donna che Simone, e non vuole perdere né l'uno e nell'altro. E la donna ha un contatto con Gesù, ha un feeling con Gesù, ma Gesù non vuole perdere neanche Simone, che lo sta giudicando, che si sta allontanando da lui. E allora Gesù rompe il silenzio. toglie un po' tutti dall'imbarazzo. E leggiamo nella storia che continua al versetto 41, e Gesù gli disse, proprio rivolgendosi a Simone: un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Un denaro era circa la paga di un giorno di lavoro. Ecco, così per fare due conti, se c'è qualche commercialista qua. E non avendo essi di che pagare, né quello che ne doveva 50 né quello che doveva 500, condonò il debito ad entrambi. E Gesù domanda a Simone: secondo te chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse: suppongo sia colui il quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi, rivolgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciare i miei piedi e ha unto i miei piedi con olio profumato. Perciò io ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui al quale è poco perdonato, poco ama. Adesso non abbiamo la possibilità di guardare tutti i dettagli o in dettaglio tutto, ma vi assicuro che ogni cosa che è scritta ha un significato veramente profondo e di valore. In buona sostanza, Gesù racconta questa storia a Simone per fargli vedere, per fargli rendere conto qual è il suo problema. Perché Gesù, lo so, abbiamo detto che legge nel cuore. E forse possiamo imparare anche noi qualcosa da questa lezione. Simone, capiamo subito che non si sentiva in debito con Gesù. Non si sentiva in debito. E se per caso ci fosse stato un debito, era molto piccolo, che lo stava ripagando con la cena. Certamente lui pensava di non avere un debito importante come quello che la donna stava dimostrando. Però Gesù dice: o piccolo o grande il debito che tu pensi di avere, non lo puoi ripagare. Il nostro debito nei confronti di Dio è il peccato, e o piccolo o grande non lo possiamo ripagare. Adesso quello che è importante è che noi ci rendiamo conto di come valutiamo il peccato. Allora, ci sono i peccati veniali, i peccati mortali, i peccati mortalissimi, non lo so quante categorie ognuno per sé ha, però io credo che i peccati noi li valutiamo semplicemente dalle conseguenze che ne vengono. Faccio un esempio. Se commettiamo adulterio, che tradiamo nostro marito o nostra moglie, è un peccato. Siamo d'accordo più o meno? Più o meno siamo d'accordo. Più o meno siamo ancora d'accordo. Però, se non se ne accorge nessuno, se mi va tutto bene, allora non diventa neanche un peccato. Io posso essere orgoglioso di me stesso, perché non c'è nessuna conseguenza. Ma se a questo tradimento ne consegue il fatto che la mia famiglia viene distrutta e ne va al rotoli, allora diventa un peccato grave e ho bisogno di perdono e ho bisogno di ritornare sui miei passi. La stessa cosa, in funzione delle conseguenze, diventa grave o meno grave. È così per le bugie, è così per la rabbia, così per il rancore, così per qualsiasi peccato. Per qualsiasi cosa che noi facciamo, se ne subiamo delle conseguenze brutte, è brutto, è peccato. Ma se ci va tutto bene, forse abbiamo risolto anche dei problemi. Per non parlare poi di quei peccati che ormai non sono neanche più peccati, perché sono, li abbiamo accettati nella nostra società, abbiamo detto che va bene così, tipo l'adulterio, l'omosessualità, non sono più un peccato, perché abbiamo detto che va bene così. Questo è come noi valutiamo il peccato. Ma noi stiamo semplicemente ingannando noi stessi. Perché se qualcosa non fa male a nessuno, se qualcosa soddisfa i miei bisogni, se qualcosa addirittura mi risolve dei problemi, non è neanche più peccato. Forse una volta era peccato, ma oggi non è più peccato. Ci siamo emancipati. Ma noi stiamo ingannando noi stessi. Sapete la Bibbia che cosa dice in Romani al capitolo 6, versetto 23? Dice: il salario del peccato, sarebbe il risultato del peccato, è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il peccato può risultare piacevole, e molte volte lo è, può risultare popolare, può risultare persino utile. Ma se io riesco a risparmiare qualche centinaio di euro sulle tasse, è utile o no? Mi rimangono in tasca. Ma sto rubando. Ma comunque il risultato di questo peccato è la morte. Pensare di avere un piccolo debito nei confronti di Dio con il peccato soltanto perché è diventato qualcosa che accettiamo tranquillamente nella nostra vita, scusatemi l'esempio, ma è l'unico che mi è venuto che abbia un certo peso. È come aver ricevuto il referto di un medico dall'ospedale e dire: ma è un tumore che ho, ma è piccolino, non è una, è un tumore proprio piccolino, non è, io pensavo chissà che cosa. Quando noi pensiamo del peccato così, è la stessa identica cosa, un tumore. Se non lo prendi seriamente in considerazione, se non lo curi, se non fai tutto quello che puoi fare, ti porterà alla morte. Ed è uguale, uguale, uguale, uguale con il peccato. Non c'è un peccato piccolino che non fa niente, o un peccato innocuo che non ha conseguenze, che non fa niente. Il salario del peccato è la morte. Ed è per questo motivo che Gesù ha pagato il prezzo più alto sulla croce per il nostro peccato, ha dato la sua vita. Il dono di Dio è il sacrificio di Gesù, perché è scritto in Giovanni 3,16 che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché Gesù non è venuto per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E chi non crede in Gesù è già giudicato, perché non ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. È come se tu hai guardato l'esame e dici: ma vabbè, un tumore piccolino, non vale la pena neanche che gli do importanza, sei già condannato. E questo fatto lo capiamo tutti. E come capiamo tutti questo fatto? Abbiamo la possibilità di capire quanto devastante è il peccato nella nostra vita. Gesù sta dicendo a Simone, ma anche a ognuno di noi: tu mi amerai nella misura in cui credi di aver un debito con me e sei disposto a chiedere perdono e ad essere perdonato. È per questo che molte volte l'Evangelo non ci fa nessun effetto, perché noi pensiamo che stiamo a posto, perché noi pensiamo che non abbiamo come Simone, uguale a Simone. Magari offriamo una cena a Gesù ed è più che pagato. Non è così, non è così. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. La storia e la festa, continuiamo a chiamarla festa, si concludono in questo modo. Gesù parla alla donna che fino a quel momento non ha detto neanche una parola. È rimasta lì ai piedi di Gesù. L'unica cosa che ha fatto, ha pianto. E Gesù vedeva nel suo cuore il desiderio di perdono, il desiderio di riscatto, il desiderio di una nuova vita, il desiderio di una nuova speranza. E Gesù parla alla donna e le dice, il versetto 48 della stessa storia: poi disse a lei, rivolgendosi alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: ma chi è questo che perdona i peccati? Ma Gesù continuò a parlare dicendo alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. In tutta la storia la donna non ha detto una parola, non ha detto niente, ma Gesù ha visto il suo cuore, ha visto un cuore desideroso di una speranza, un cuore desideroso di una nuova possibilità, un cuore desideroso di ricevere perdono, un cuore desideroso di avere una nuova vita. Il risultato? L'ha ricevuta. Ha ricevuto quello per il quale aveva sfondato quella porta. Ha ricevuto quello per cui era andata da Gesù. E Gesù gli ha detto: i tuoi peccati sono perdonati, vai in pace. Anche questa festa finirà. Anche la festa di questa mattina finirà. E come tornerai a casa tu? Con il perdono e con la pace? O ancora con quell'arroganza e quella ribellione di dire: Gesù, non vale la pena, non sei un granché. Quelle persone hanno detto: ma chi è questo che perdona i peccati? È quello che è morto sulla croce. Ecco chi è. E Gesù è andato sulla croce per perdonare i peccati, per prendersi il diritto di dire: io ti perdono, io ti voglio perdonare. Lui è andato sulla croce. Gesù questa mattina non vuole perderti, come non voleva perdere Simone. Indipendentemente da quello che era l'atteggiamento del suo cuore, non lo voleva perdere. Gesù questa mattina non vuole perderti, indipendentemente da quello che è l'atteggiamento del tuo cuore. Ora sta a te non perdere l'opportunità di ricevere e di abbracciare la grazia di Dio. Sta a te cambiare l'atteggiamento del tuo cuore e dire: Signore, perdonami, io sono in debito con te. Io sono in debito con te e per questo ho bisogno di una nuova vita, del tuo perdono e di una nuova speranza. Questo è quello che il battesimo sta testimoniando e questo è quello che fa la differenza tra finire la festa e andarsene a casa o finire la festa e andarsene a casa con il perdono e la pace. Gesù ha fatto tutto quello che poteva fare. Adesso la scelta è nelle tue mani e nelle mie mani di dare un valore a quello che Gesù ha fatto o lasciarlo lì come se non fosse successo niente. Gesù non vuole perderti. Vogliamo alzarci in piedi? Io vorrei pregare un momento, perché sapete, queste mie parole non potranno convincerti di niente, ma lo Spirito Santo sì. Lo Spirito Santo è quello che convince di peccato e ti dice quello che devi fare. È per questo io che vorrei pregare, vorrei credere che ognuno di noi potesse farlo assieme a me. Signor Gesù, ti vogliamo ringraziare per la tua parola. Ti vogliamo ringraziare che o siamo come Simone, o siamo come quella donna, tu ci ami e tu non vuoi perdere nessuno. Per questo io ti prego, Spirito Santo, di parlare ai cuori di ognuno e di gettare luce affinché gli occhi del nostro cuore si possano aprire e possiamo apprezzare il tuo amore e la tua grazia, essere guidati verso di te. Ti ringraziamo, Gesù, e ti benediciamo.